Io ridurrò al minimo le introduzioni, anche perché dopo quella della dottoressa Covazzana Romanelli direi che sugli aspetti fondamentali, insomma, di perché si fanno questi lavori sono perfettamente d'accordo, quindi non entro nel merito. Passeremo noi più sugli aspetti concreti, insomma, vi faremo vedere come funziona grosso modo questa banca dati delle visite pastorali. E prima di entrare appunto nella banca dati, solo alcuni accenni. Innanzitutto vorrei dire che l'obiettivo di questo seminario era quello di avere un quadro generale, alcune informazioni di fondo proprio sulla consistenza, sulla disposizione, sull'ordinamento degli archivi diocesani delle tre Venezie relativi al fondo atti visitali. Penso che questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto, adesso abbiamo le idee un po' più chiare. Chiara nel senso che abbiamo visto che gli archivi sono diversi e i problemi sono tanti. E il secondo obiettivo era quello di, appunto, di farvi conoscere questa esperienza che è dell'Istituto Storico Italo-Germanico, che consiste appunto nel tentativo di creare un repertorio dei fondi degli atti visitali, delle visite pastorali italiane, partendo da... che è cominciato circa 2 anni fa con la creazione di un programma e attualmente abbiamo repertoriato le visite pastorali trentine della diocesi di Trento. Questo strumento ha una valenza soprattutto storica. Noi abbiamo lavorato con storici, con esperti di archivistica e con informatici, cercando di conciliare esigenze diverse. Non so se ci siamo riusciti o non ci siamo riusciti, poi vedrete voi insomma il tipo di prodotto che vi proponiamo. Comunque l'obiettivo appunto è sia storico sia archivistico, è una fonte specifica, gli atti visitali, quindi volevamo dare, soprattutto dire dove si trova, senza entrare però nello specifico che ci ha fatto vedere, i problemi sono tanti comunque di inventariazione archivistica, e entrando però nei temi. Le visite pastorali offrono temi numerosi su argomenti diversissimi, le visite pastorali sono utilizzate non solo dagli storici in senso stretto, ma da tantissimi studiosi appunto, dagli storici dell'arte, dagli storici dell'architettura, eccetera. Quindi volevamo provare a dare un elenco di temi, partendo da un questionario prefissato che abbiamo creato in base anche tenendo conto delle esperienze francesi. I francesi hanno completato questa repertoriazione delle visite pastorali ancora alla fine degli anni 70 su tutta la Francia. Loro hanno meno problemi per degli archivi perché questi sono più concentrati e anche il fondo visite pastorali sono meno numerosi, però comunque questa cosa è già stata fatta. Avevano elaborato un questionario di cui abbiamo tenuto conto e poi abbiamo tenuto conto parallelamente dell'esperienza tedesca. Anche i tedeschi hanno cominciato questa operazione, anche se non è ancora conclusa, è rimasta. Nell'uno nell'altro caso però utilizzano il computer. Quindi il nostro tentativo era di fare un programma che potesse fare quello che i francesi hanno fatto, magari migliorandolo, però con un supporto informatico. Con l'idea anche di poter naturalmente utilizzare il computer in archivio, nell'archivio diocesano, che ogni archivio avesse appunto il suo inventario degli atti visitali, o stamparlo, perché poi, come sapete, dal computer si può benissimo stampare, quindi se un archivio deve prima comprarsi gli scaffali, si compra gli scaffali, però appunto non serve che ci sia un computer. E il secondo appunto era fornire questo strumento agli studiosi in senso lato, diciamo. Sulla banca dati trentina è stato un lavoro tutto sommato complicato, decisamente, però che abbiamo fatto in un anno. Per fortuna comunque l'archivio, come vi ha raccontato Don Sparapani, è ordinato, gli atti visitali sono in volumi, quindi nonostante alcuni volumi miscellanei non avevamo problemi grossi di tipo archivistico, insomma, nella ricerca del materiale. Quindi il lavoro di 6-7 persone non a tempo pieno assolutamente, perché erano tutti ricercatori o studenti o persone che fanno altri lavori, che però si interessano di queste cose. e quindi abbiamo inserito i dati. Io direi di passare immediatamente, poi se avete domande da fare appunto potete farle, o qualcuno anche degli altri collaboratori potrà tornare su alcuni aspetti. Direi di entrare subito nel discorso delle schede. Allora, la banca dati si divide in si divide in tre schede generali e in altre schede che vediamo poi. Le schede generali sono la prima, che abbiamo chiamato visite pastorali. Io mi scuso perché si vede bene il nero, i campi riempiti di record, ma non si vede molto bene il nome dei, campi. Vi abbiamo dato un elenco, quindi casomai potete seguirli anche sull'elenco che vi è andato, spero che avete trovato fuori. Allora, la prima è la scheda visite pastorali, viene riempita per ogni visita pastorale e ha i seguenti campi, grosso modo, i più importanti, vi dico. Ci sono comunque le informazioni generali su ogni visita, quindi l'epoca della visita, l'addio, scusate che provo anche a posizionarmi, la diocesi nell'epoca della visita, la diocesi attuale, che possono non coincidere proprio perché possono essere certi spostamenti di confini, soppressioni, eccetera, quindi materiale che prima era in un certo posto è stato trasferito in un altro, come è successo anche a Trento, insomma, con l'archivio, parte del materiale è finito nell'archivio di Bressanone, il periodo come secolo della visita e le date di inizio e di fine. Subito un problema, la questione dei documenti sussidiari. Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, noi abbiamo fatto una scelta a questo riguardo, di non render conto delle informazioni che questa documentazione dà. Cioè, a volte è molto incerto se i documenti sussidiari in generale, che sono liste di beni, processi, liste di inconfessi, c'è di tutto nei documenti sussidiari, dovevamo decidere se considerarli come informazioni e quindi inserirli nelle schede successive quando si affrontano i temi delle visite pastorali, oppure tenerli a sé stanti. La scelta è stata quella di creare un piccolo archivio specifico per i documenti sussidiari in cui vengono raccolti per ogni visita, dando le informazioni di base, cioè l'ubicazione archivistica, dove si trova questi documenti, la tipologia, che tipo di documenti sono. In questa visita, ad esempio, è la prima, quella del, prima del Concilio di Trento, quindi ci sono pochissimi documenti sussidiari. Come vedete, questa tabella, ci sono solo tre documenti sussidiari allegati al verbale di visita, però se poi andiamo nel 700 ci sono liste di 200-300 documenti per tipologia comunque, quindi molti di più. E se appunto questo materiale rientra nei verbali di visita oppure ha un'altra collocazione, si trova separato dai verbali di visita. In questo caso non siamo entrati nel dettaglio dove sono, ma abbiamo solo dato appunto questa informazione essenziale. Abbiamo poi raccolto le informazioni sui vescovi, che come sapete non c'entrano con gli atti visitali, però permettono di avere un quadro generale dell'episcopato. Abbiamo raccolto le informazioni essenziali, soprattutto quelle che riguardano l'attività pastorale dei vescovi, con l'inizio e la fine dell'episcopato. Queste informazioni possono essere, ci sono questi due tasti di import-export, che non si vedono bene, ma credetemi, possiamo ad esempio usare uno scanner, utilizzare quindi studi già editi o appunto biografie di vescovi già, passare sullo scanner e inserirli direttamente nel programma, quindi senza dover digitare il tutto, eccetera. Poi c'è un altro piccolo archivio separato, nel senso che poi questi visitatori non entrano nei dettagli, c'è un altro archivio che riguarda i visitatori, il vescovo innanzitutto se visita, oppure tutti i collaboratori del vescovo, le commissioni visitali, insomma, che seguono il vescovo in visita. E anche in questo caso ci siamo un po' dilungati, nel senso che le consideriamo informazioni importanti dal punto di vista storico, insomma, perché alla fine dovrebbero dare l'organizzazione, questi sono i personaggi principali dell'organizzazione della curia, infatti sono di solito vicari generali, vescovi suffragani, canonici, e quindi erano informazioni che già di per sé permetterebbero adesso di ricostruire o di studiare nel corso del tempo chi erano i principali collaboratori dei vescovi. Abbiamo messo il nome, il ruolo e la dignità, cioè cosa facevano, quali incarichi avevano, e i poteri assegnati dal vescovo, perché i poteri comunque potevano variare. Ad esempio, in alcune visite del Cinquecento trentino, i visitatori avevano il diritto, avevano il potere di giudicare, di istituire tribunali e di giudicare. E per finire, nella scheda generale abbiamo inserito l'elenco dei luoghi, l'abbiamo chiamato elenco dei luoghi, poi Paoletti vi farà vedere, cioè, forse è rimasto fuori però, sì, fuori. Cosa viene fuori alla fine di questa cosa. Elenco dei luoghi, intendendo però in questo caso, vediamo se si vede, il toponimo, cioè il luogo appunto specifico dove il vescovo e i visitatori sono andati, sono andati, seguito dalle chiese. Quindi nomi e chiese, questo per ogni visita, che in realtà è stato il lavoro più grosso e impegnativo, proprio perché si è trattato di prendere volume per volume, di sfogliarlo e di raccogliere tutte. Però, insomma, dal punto di vista di studiosi locali può essere uno strumento molto utile, non solo locali, non vorrei fare neanche distinzioni. Questa è la prima scheda. Come vedete, un discorso generale, velocissimo, e i campi sono soprattutto di tre tipi. Noi non potevamo utilizzare strumenti informatici immettendo i testi, perché le visite pastorali sono enormi. Quindi era impossibile digitare i testi in computer e quindi fare indicizzazioni, ci sono programmi che permettono queste cose. Abbiamo scelto un database, che è lo strumento comunque più elastico e che dà le informazioni essenziali. I campi infatti sono, a parte quelli di tipo carattere, come questi, in cui possiamo scrivere informazioni, hanno lunghezza variabile, la maggior parte dei campi poi sono logici, si chiamano, cioè l'informazione è di tipo sì o no. Adesso ve ne faccio vedere uno. Meglio andare su un'altra scheda. Quando dopo un quarto d'ora bloccami. Ah, io sono guardato quando comincia. Hai 2 minuti ancora. Ancora 2 minuti. Allora vado avanti velocissima. Sì, no, cioè l'informazione c'è o non c'è. Si parla in questo caso, vedete qualcosa o non si vede niente sul nome dei campi? Guarda il quadro geografico. Quadro geografico si vede? Poco. Insomma, ad esempio, informazioni quadro geografico, nella visita si parla o non si parla, si dà una visione d'insieme, ci sono informazioni che riguardano la geografia della zona, se ci sono sì, altrimenti no, quindi informazioni ridotte. Anche perché il numero dei campi è più di 300. Campi intendo appunto, oltre le schede generali, gli argomenti trattati in ogni visita. Sono circa 300 argomenti che abbiamo previsto. Naturalmente non tutti vengono compilati, perché a seconda delle visite sono più o meno dettagliate. La seconda scheda generale è la scheda archivistica che farà... che non so se piacerà molto agli archivisti puri, ed è questo. questa. Perché non va? Un po' difficile parlare e utilizzare. Abbiamo cercato qui di raccogliere gli elementi essenziali, diciamo, di tipo archivistico. Abbiamo ubicazione della visita, in quale città si trova, l'archivio, qual è l'archivio, qual è la biblioteca, qual è qualsiasi altro posto dove abbiamo raccolto, dove è raccolta o è parzialmente raccolta la visita, la segnatura archivistica, vi dico, noi eravamo facilitati perché erano tutti racchiusi in volumi, il numero dei volumi, la consistenza interna, cioè il numero di carte. Più difficile per le miscellanee, perché spesso si trattava proprio di contare le carte, se la visita è scomposta, per tutti quei casi in cui appunto non abbiamo i volumi di visita, se ci sono indici, presenza di indici, qual è la lingua prevalente utilizzata con le varie possibilità, latino, italiano, volgare, misto, tedesco, eccetera, se è microfilmata, la natura degli atti, se si tratta cioè dell'esemplare ufficiale oppure di una minuta o una copia, o se è composita, cioè può essere parzialmente una minuta, può essere parzialmente un esemplare ufficiale, eccetera. No, in questo caso no, una copia o più copie o raccolte di minute. Queste sono le informazioni archivistiche. E terza scheda generale è la scheda bibliografia. Anche qui un lavoro in un certo modo di ricerca, in quanto si rende conto, si vorrebbe appunto che alla fine di questo lavoro, siamo nell'ipotesi così proposta, insomma, avere un catalogo proprio bibliografico degli studi sulle visite pastorali, anche perché spesso si tratta comunque di tesi non pubblicate, comunque lavori anche importanti o che potrebbero essere utilizzati, ma essendo tesi di laurea non vengono conosciute, quindi ci sono 10 tesi su una stessa visita, magari esagero, però succede, insomma, di lavori molto simili, e comunque di avere un quadro generale. Qui raccogliamo esclusivamente bibliografia riguardante le visite pastorali. Ed sono i campi tradizionali, qui non abbiamo variato niente, sono solo sistemati in maniera un po' diversa magari, però sono tradizionali, autori, titolo, luogo di edizione, editore, eccetera. Le varie tipologie possono essere naturalmente il libro, una tesi o l'articolo. Queste sono le schede generali, adesso devo affrettarmi a dirvi che poi ci sono delle schede specifiche che abbiamo chiamato unità visitali, che racchiudono tutte le tipologie ecclesiastiche, pievi, parrocchie, ricettizie per il Sud Italia, oratori, chiese di confraternite. Vi faccio vedere un elenco sperando che si veda. Queste sono le varie possibilità di chiese, di enti ecclesiastici, sì. Scusate. Ma ce ne sono altri. Sì, poi va avanti. Sì, comunque appunto, ed è possibile aggiungercene naturalmente. Questa scheda è molto grossa, come vedete è in 4 pagine, infatti qui ci sono tutti i temi sostanzialmente che possono essere trattati in una visita o quelli che noi abbiamo individuato come principali. E si dividono nelle forme tradizionali che segue anche una visita pastorale, quindi abbiamo il quadro geografico, lo stato del clero, le informazioni sul clero, le informazioni sugli edifici ecclesiastici, scusate prima, le informazioni sulla struttura economica e giuridica. Queste ve le potete vedere nell'elenco dei campi anche più semplice, qui vi scorro velocemente solo per darvi un'idea, e le informazioni sui laici e sul culto. 4 pagine. Naturalmente, se si tratta di una pieve o di una visita approfondita, moltissimi campi saranno compilati, però vedete, sono quasi tutti sì e no, l'informazione c'è o non c'è, si parla o non si parla di un certo argomento. Se si parlerà, se si tratta di schedare un moratorio, naturalmente quasi tutto rimarrà vuoto. Inoltre, abbiamo previsto una serie di schede per enti ecclesiastici o parzialmente ecclesiastici che hanno una struttura particolare, specifica, e sono questi, ve li faccio solo vedere quali sono, senza entrare nemmeno nei campi. Sono confraternite, c'è una scheda specifica per le confraternite, una scheda per monasteri e conventi, una scheda per gli ospedali e ospizi, una per i monti di pietà, una per il seminario e una per il capitolo. Tutte queste schede sono collegate alla scheda madre, che è la scheda visita pastorale, questa, la prima, iniziale. Ognuna delle schede che riguarda gli enti ecclesiastici o gli enti come confraternite, monasteri, eccetera, può essere collegata agli enti sottoposti, cioè c'è anche una struttura gerarchica. Non ci entro perché, se poi vi interessa, ne parliamo, o se no ne parleremo in un altro momento. E adesso Paoletti vi farà vedere invece cosa viene fuori.